Quando arrivarono davanti all'acqua del fossato, l'anatro ordinò ai piccoli di tuffarsi. Uno dopo l'altro gli anatroccoli si buttarono. Splash, splash, splash, plonf! Affondarono con la testa sott'acqua, ma subito riemersero, galleggiarono e cominciarono a nuotare velocemente. Un gufo che rincasava dal lavoro di guardiano notturno disse alla sua gufa: parla! Hai visto? 10 bitticchietti così piccoli ne sanno già nuotare. Me la prego, cammina a casa. Mamma Anatra tirò un sospiro di sollievo. Sì, anche il brutto anatroccolo era suo figlio, visto che in acqua se la cavava molto bene. Adesso basta, piccolini. Quando sarete più grandi, farete il giro del fossato intorno al castello. Di più non si può. E adesso via, tutti al pollaio. L'anatra partì tutta pimpante, seguita dagli anatroccoli. Quello grosso però era un po' drollo, inciampava nei fratellini che lo insultavano e lo lasciavano indietro. Per carità, è troppo strano, non riesce neanche a camminare, tutto sghigliato, ha preso dal padre sicuramente, pensava l'anatra. Pazienza, per fortuna gli altri assomigliano a me. Allora piccolini, adesso mamma vi spiega come si sta nel mondo. Prima di tutto dovete stare attenti a Pisito che il gatto ha bramito. Non fece in tempo a dirlo che videro un grosso gatto, colore cane Vuendi, che scappava dal pollaio con una testa d'anguilla tra i denti, lasciando a becco asciutto anatre e galline. Avete visto come va il pollaio, picciocchedus? Furbi e prepotenti hanno sempre ragione! Quindi mi raccomando, diventatelo, capito? Sì, mamma, lo diventeremo. C'ha ragione, mamma, c'ha ragione, bisogna diventarlo, bisogna. Ed ora, ragazzini, dritti con quelle spalle sulla testa! Ah, la vedete quella signora? Quella è un'anatra nobile, un'anatra all'orange! Si dice che sia andata da nuovo alla cocque! Fate l'inchino, fate l'inchino! Buongiorno, vostra grazia! Cosa dice vostra grazia? I miei anatroculini! Le piacciono! Sì, anche quello grasso buddone mio, sì, no, non mi è uscito molto bene, ha preso dal padre, ha pigato il suo babbo, pigao. Come? Rifarlo da capo, no, non è possibile, vostra ragazza, ho già buttato il guscio, gli altri però sono belli, vero? Grazie, vostra grazia. Se trovo una testa di anguillo di Momungione gliela porto. Certo, non mancherò, non dubiti, vostra grazia, tante cose, vostra grazia, salutate, vostra grazia. Disgraziato, vieni qui a mamma. Hai sentito cosa ha detto madame? Ha detto che fai schifo, che figura! La prossima volta che incontriamo qualcuno, nasconditi, acquari! No, mamma, io non ho colpe se... Mettica Satsugara. Il brutto anatroco non fece in tempo a finire la frase che un'anatra si gettò su di lui e lo beccò in testa. Mamma Anatra protestò, ma nel pollaio tutti dicevano: ha fatto bene a zaccarlo, è troppo grosso, è troppo strano, buh! E tutti a beccarlo, spingerlo, a morderlo e via! Spintoni, Tsugara, Zaghingoni e Zaccheponi! Il primo giorno passò così, gli altri peggio.